Europa 24. Un saluto a tutti voi, Europa 24 riparte da una nota del Consiglio d'Europa su un tema tecnico per certi versi, riguarda molto noi giornalisti, ma in realtà riguarda la libertà di stampa. In un momento in cui l'Europa intera si emoziona giustamente intorno alla tragedia di Charlie, viceversa a volte questi temi rimangono davvero molto sotto traccia. Allora, di che si tratta? Il Parlamento italiano deve riprendere il processo di modifica della legge sulla diffamazione, così dice il Consiglio d'Europa, in modo da depenalizzare il reato e portare la legislazione in linea con quanto stabilito dagli standard del Consiglio d'Europa. A chiederlo è l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione Paneuropea nel rapporto sulla protezione della libertà di stampa che verrà discusso e votato martedì prossimo a Strasburgo nel corso della sessione plenaria. Torniamo invece a parlare, dei temi centrali di questi giorni, e cioè il dibattito tra rigore e flessibilità. Ieri l'intervento di Moscovici, che ha detto, per assicurarsi la promozione a marzo, in sostanza l'uso della nuova flessibilità UE, l'Italia deve fare degli sforzi in più, cioè ridurre in particolare il deficit strutturale di 0,25%. Stamattina, nel corso di un dibattito radiofonico europeo, ne abbiamo parlato con Markus Ferber, cristiano sociale, esponente dunque cristiano sociale della Baviera. Lui in particolare abbiamo chiesto un commento su questo atteggiamento che abbiamo sentito negli ultimi tempi, in particolare da Matteo Renzi, di rivendicare l'idea della flessibilità come una sorta di vittoria francese e italiana in particolare. Sentiamo cosa ha detto Ferber. Mr. Ferber. Allora, that's a wonderful question. I think it's not a battlefield and who is winner. Allora, dice, io loser. Credo che non ci sia una questione di chi vince e di chi perde, perché a dirla tutta, alla fine della storia, i veri perdenti sarebbero i contribuenti di Francia e di Italia. Entrambi i paesi sanno bene che attraverso una maggiore crescita possono superare il problema del debito. In Francia sono debiti correnti, in Italia piuttosto sono debiti accumulati. Entrambi i paesi sanno che accelerando sul fronte della crescita possono risolvere il problema senza dover ricorrere a nuove manovre correttive. La questione, dice Ferber, è tutta qui. Bisogna mettere in campo tutte le condizioni possibili a sostenere la crescita. E conclude, dice Ferber, mi creda, io non la vedo proprio come una vittoria di questa o di quella parte, dei socialisti o della destra. Il rischio vero è la perdita di fiducia da parte degli investitori internazionali. E quello, e soprattutto quello, dice Ferber, io credo sia davvero un grosso pericolo. Infine, una notizia che ci porta in Polonia: la decisione della scorsa settimana della Banca Centrale Svizzera di levare il tetto sul cambio fisso, sapete, ne abbiamo parlato ampiamente anche in Italia, ha avuto molte ripercussioni. Bene, in queste ore si sta un po' consolidando il quadro su quanto accaduto in Polonia, dove lo zloty, la moneta locale, è balzata in poche ore da 3,53 a 4,50 appunto nei confronti di un franco, fino ad arrivare a punte di 5,14. Perché è così importante questo per i polacchi? Bene, perché ci sono 600.000 mutui fissati, denominati in franchi svizzeri. Allora, per questo, questa nota spiega, racconta poi in un dettagliato approfondimento a cura appunto della banca polacca, della banca centrale polacca, come attualmente venga considerata la Polonia il paese più colpito da questa decisione. 600.000 persone in sostanza hanno visto da un momento all'altro il loro mutuo può crescere del 21%. E con questa notizia concludiamo l'appuntamento con Europa 24. Naturalmente torniamo domani alla stessa ora, questa sera intorno alle 21:30 col nostro approfondimento serale. Un saluto. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.